su Rigonia. Seconda clip, per adesso le conto, poi a un certo punto mi basta. Sono appena uscito da una partita dello sport che pratico io, si chiama Hitball, si gioca praticamente solo a Torino e abbiamo perso. Abbiamo perso contro una squadra di giocatori più forti e io non sento di aver giocato bene e quindi ho il cuore un po' pesante. Naturalmente quando giochi con dei giocatori contro giocatori più forti e insomma, quando perdi questo tipo di partite devi avere la lucidità di dire ok, ho fatto quello che potevo. Però perdere non è mai bello e perdere è sempre, come dire, l'effetto anche, cioè è sempre l'effetto di mettere in discussione te stesso e anche sempre un po' l'effetto di, come dire, mescolare le emozioni buone in un mischiotto di emozioni cattive. E infatti, per dire, questa clip l'ho immaginata fuori dalla palestra dopo aver perso e poi alla fine l'ho registrata, la sto registrando a casa, e quando in realtà sarebbe stato più bello forse registrarla in un ambiente diverso da quello da cui vado normalmente in onda. E perdere ti fa salire i cattivi pensieri, perdere ti incupisce, perdere, però è anche vero che perdere ti dà lo slancio, nel senso la delusione per la sconfitta è anche l'impegno, la volontà di fare meglio, quindi la prossima partita farò meglio, magari cercherò di fare meno scene in campo, urlare di meno, come dire, fare meno quello carismatico, quello pimpante e mi concentrerò più sul gioco. Comunque a me piace molto giocare, sento che in ambienti, in spazi dove il setting è chiaro, dove ci sono delle regole ben definite, io mi muovo molto bene anche attorno alle regole, non per forza sempre seguendo le regole alla lettera. E quindi lo sport è ottimo, lo psicodramma fu ottimo perché avevo appunto un set di regole e un ambiente controllato che mi permetteva di inquadrare dove mi trovavo e cosa dovevo fare in quel momento. E io in questi contesti ci sguazzo, quindi sono contento comunque di aver incrociato l'Hitball sulla mia strada, uno sport che mi ha dato tanto in termini anche di crescita personale, scoprendo un lato di me appunto più estroverso, più anche, come dire, estroso, più grintoso, che effettivamente non conoscevo, non così comunque. E mi dà anche l'opportunità di pensare, ok, oggi ho giocato male, ma la prossima partita giocherò decisamente meglio. Vogliamo sapere da dove deriva questo termine e cosa frociaggine significa per te. L'artrosi. È un inter dialetto, pur essendo efficace. Significa uno sciopero. Molto paterno, però pure morale. Per frociaggine forse è una vita presa a braccia aperte. Che so, può essere un salmone. Quando paternamente prendo una trota e la metto in Africa. Ah, vedi, io mi sono operato di fraliciste quando ero alla... Allora, è un acronimo di polpettine coi piselli e con le zucche. È una droga. Mettiamo così, una droga. È una cosa... una storia lunga. La grande barzelletta. Eccellenza, l'ha detto. Rigonia. Ciao Radio Antidoto, buongiorno, buona domenica 2 giugno 2024, Rigonia, stagione seconda, episodio 27. Adesso mi è venuto l'accento come Eccellenza, che Eccellenza è delle parti mie più o meno, cioè lui è abruzzese, però quando... molisani, abruzzesi, pugliesi, ci hanno tanti punti in comune, quindi finisce sempre che quando sente sta gente poi mi torna l'accento, e che poi manca un accento vero, quindi quando scende e quando parla così la gente mi piglia per culo. Ma come stai, Radio Antidoto? Che ti prende? cosa ti ispira in questa domenica? Io sono in onda perché ho tempo libero. E non avevo grossi concetti da portare, niente, adesso mi è stato attaccato. Non ho grossi concetti da portare, però tutto d'un tratto, mentre ero lì che svuotavo il garage, che ormai, come da foto pubblicata sullo shotbox di Radio Antidoto, sto usando le foto della vita mia per come immagine di copertina di questi episodi, che tutto sommato è perfettamente coerente col progetto. Ho iniziato un po' a, come dire, a muovere le rotelle e a pensare, ecco, di cosa parlerò in questo episodio. E gli audio che hanno introdotto questa puntata sono già abbastanza in linea con quello che mi sarei proposto di fare. Per cominciare c'è questa idea delle clip prese in giro che scusate, che è un'idea che ho iniziato ad avere l'estate scorsa e purtroppo sono andate perdute. Tra le altre cose ho scoperto una cosa che un po' mi spezza il cuore, perché Google Drive tende a corrompere i file audio col tempo, quindi molte cose salvate, tra cui le primissime puntate di Rigonia, non si riescono più ad aprire. Non ho ancora capito qual è l'approccio migliore alla situazione. E in passato è stato possibile salvare questi audio riconvertendoli, facendo un secondo giro di conversione, quindi magari ci riesco, però il problema è che devo tirar fuori questa roba da Google Drive, un po' perché Google ormai è da un mese in più che mi dice che sto finendo la memoria, si facesse anche lui i fatti suoi. Però il discorso è che non so dove metterceli, e poi devo fare sto lavoro, appunto, devo fare sto lavoro di caricamento, di conversione, che insomma è abbastanza pesante. Il secondo audio è una canzone, si chiama Tony Hawk of Ghana, di una band italiana che si chiama I Hate My Village, e questo è, come dire, l'altro filone di questo episodio. Vi farò sentire musica nuova per me, che ho sentito di recente, perché ho ricominciato ad andare ai concerti, era da tanto che non lo facevo. Quest'estate cercherò di andare a più che cavolo, cercherò di andare a più concerti possibile, e quindi visto che nell'ascoltare i concerti scopro anche musica nuova, ve la propongo. Alla fine ogni volta che io riprendo un po' il giro appunto dei festival, dei live, Poi quello che ascolto mi piace quasi sempre. Devo dire che comunque magari non vengo colpito dall'originalità sempre, ma in generale la musica mi piace, quindi le cose che mi trovo davanti poi sono sempre cose che vale la pena di condividere, o almeno alcune. Inoltre, come dire, questo mio desiderio di rimettere la testa fuori, tornare sotto i palchi, ascoltare nuova musica, non è tanto per la musica in sé, che pure, appunto, come ho detto, è una bella esperienza, ma perché come dire, avrei il proposito di incontrare persone come me, persone che hanno una visione del mondo, un approccio e contenuti simili ai miei, e naturalmente li cerco nei posti che mi appartengono, e naturalmente se non mettessi il naso fuori non lo potrei fare. Quindi per stringere questo blocco di parlato, la puntata di oggi, la 28esima di Rigogna, la seconda stagione, parla di progetti, perché come voi avete già ben modo di vedere, sono già partito con tante cose, con tante idee, con, insomma, oh, quantomeno con un certo tipo di intensità, e comunque ho un'estate davanti dove sento che c'è, come dire, un mondo da riesplorare, un mondo da riscoprire, e questo in buona sostanza è quello di cui cercherò di parlare oggi, forse più o meno, ma la verità è che avevo semplicemente voglia di venire in radio. Allora Lucia, devi sapere che io un anno fa, sto registrando, e avevo intenzione di raccogliere delle clip. Ma è un'app tipo Accesso Veloce? Certo. Amo, suono, faccio la radio, che cacchio, non ho un registratore veloce a portata di mano, devo rubare audio in giro. Comunque, l'idea è fare delle clip da mandare random nelle puntate. E avevo un bel archivio, però poi quando mi sono seduto sopra il telefono, quando hai spaccato il mio vecchio telefono col microfono buono, non sta merda che c'ho adesso, avevo un bel mucchietto di audio. Forse sono caricati su Drive, ma non ho ancora controllato. Detto questo, sono passato un anno. Ma in teoria è... vabbè, ti preoccupare. Ciao. Di cosa mi vuoi... raccontami qualcosa. No. Dai. Sappi che la manderò in radio comunque, quindi ti conviene contribuire. Allora, siamo in questa bellissima borgata, è tanto bella da chiamarsi Borgata Paradiso. Questo festival è scritto ALINGANA. Non saprei dove mettere gli accenti. Alingana, si chiama Alingana. Potrebbe essere anche Alingana. Ma i suoi fondatori lo chiamano Alingana. Che significa? Non ne ho idea, non lo so. Sarebbe bello scoprirlo e fare un audio con questo contenuto. Beh, siamo circondati di verde in una serata più o meno freschetta. Io ho un notevole torcicollo e attendiamo che inizi la musica dal vivo. Grazie. Ciao. Basta? Finito così? Sì, devono essere brevi, sono già 2 minuti. Ok, basta, ciao. Ciao. Qui noi possiamo giocare finché vogliamo, ma finché noi non capiremo, e soprattutto finché le donne, non le femministe, non mi interessano, le donne mi interessano invece molto, belle, le belle. Belle le brutte anche dentro. Ti interessano meno? Brutte proprio affatto, direi. Capire che l'unica forma che noi abbiamo di speranza, di fiducia in tutto quello che facciamo è la rassegnazione. E non parlo di quella kierkegaardiana, parlo d'altro, ma sarebbe molto complesso, questo non lo capiranno. Si sono lasciate inghiottire dalla storiella dall'istoriette, la storiella d'ogni giorno, dal giornalismo, dall'attualismo, dal pettegolezzo politico nostrano ed, le donne. Ed estero, certe donne, certe. E quindi sono nella dialettica, sono antipoetiche, sono delle creature antipoetiche che nulla hanno a che spartire con la donna in quanto bella, prima, ma in secondo luogo nemmeno con la donna in quanto assente. Nulla hanno a che spartire con Beatrice. Beatrice ha autorizzato la vita nuova. Loro non fanno che continuare a lasciarsi logorare da questa sporca vita che ci somministrano quotidie. Rigonia. Madonna, che bello ascoltare Carmelo Bene. Riesce sempre a dire delle cose potentissime che uno sia d'accordo oppure no. Quello che vi ho fatto sentire poco prima è un pezzo che si chiama Butzig, di questa band si chiama I Rossa, che abbiamo sentito proprio ieri sera alla Lingana Festival, io e Lucia. Abbiamo sentito solo tre pezzi perché eravamo già molto stanchi, erano le 10 e noi vecchietti a quell'ora andiamo a dormire. No, non è vero, però eravamo stanchi da una giornata molto lunga e molto appagante, e ci sono piaciuti, nel senso, li abbiamo trovati una proposta un po' diversa. Questo dal vivo tendono un po' a cambiare, come dire, i pezzi tendono a cambiare un po' radicalmente, molto rapidamente, quindi ti disorienta, non senti mai la stessa cosa per più di un minuto di fila, che è una cosa bella, però che sfida un po' l'ascoltatore e forse va amministrata. 5 ragazzi sul palco, 2 chitarre, un basso, una batteria naturalmente, un chitarrista elettrico, una cantante che avete sentito che suonava sia chitarra elettrica che i synth, peraltro voce molto bella da disco, forse un po' necessita di un po' di coraggio dal vivo a tirarla fuori, e un cantante barra frontman con principalmente con una bella chitarra acustica, tra l'altro un bellissimo strumento, almeno dal punto di vista estetico, un po' di tinta ai capelli, un po' di maschi con le gonne, insomma qualcosa che un po' cerca di essere anticonvenzionale senza però buttarla in vacca, insomma una cosa che mi ha incuriosito e non avevo ancora sentito un loro brano registrato e quindi lo abbiamo sentito insieme. Quindi aria aperta, gente presa bene, un po' di musica tunz tunz in orario di aperitivo e un bel venticello, ecco, questo queste sono delle cose che effettivamente quest'anno andrò a cercare, o quantomeno avrò piacere di vivere quando mi capiterà di viverle. questa sarà una puntata di poche parole, ma non tanto per la tosse che però mi sta dando parecchio fastidio, ma perché appunto man mano che vado avanti mi rendo conto che effettivamente sto traendo grande piacere dall'ascolto di questi audio pizzicati qua e là. Sicuramente nei progetti che io sto cercando di, sui quali sto lavorando ormai da una decina di giorni, se non proprio un mese, c'è proprio la voglia di dedicare il tempo libero alla creatività, quindi buttare fuori tutto. E quest'oretta ce l'avevo libera e avevo molto piacere ad andare in onda. E ieri pomeriggio ho avuto un'oretta libera e mi sono dilettato nel suonare una vecchia canzone che tra l'altro volevo mettere in onda, ma non l'ho caricata, mi sono dimenticato. Magari me la recupero, ma in realtà non ha molta importanza, e che ho condiviso sui social. E appunto, tutto questo finalizzato a creare un circuito di energia costante, è un'energia che ha a che fare col flow. Sto leggendo un libro che si chiama Flow, di un autore ucraino che si chiama Mikhail... oddio, solo il signore sa come si pronuncia questo nome. Devo anche andarlo a trovare perché lo devo leggere per pronunciarlo e non è neanche così banale. Mikhail Csikszentmihalyi, prendetelo col beneficio dell'inventario. Il sottotitolo in italiano è Psicologia dell'esperienza ottimale. Era un libro che io volevo leggere da una decina d'anni circa. All'epoca non c'era una traduzione italiana, almeno non ero venuto a conoscenza, e non era un periodo in cui acquistavo libri così, non è che potessi proprio andare in giro a comprare libri senza un buon motivo, e quindi mi ero scaricato un PDF che non avevo mai aperto, forse avevo aperto un po' distrattamente. Comunque, sto procedendo con la lettura di questo libro, sempre rispettando i miei tempi, senza affannarmi, come dire, anche un po' per raccogliere tutti i concetti che ci sono dentro, un libro parecchio denso. E appunto una delle degli aspetti più interessanti è quello del benessere interiore e del flow, inteso come perdita del concetto di sé, quindi non perdita del sé ma perdita del pensiero del concetto di sé, ed è esattamente quello che ho piacere di fare adesso, quando imbraccio la chitarra o quando scrivo la newsletter, ovvero dimenticarmi del fatto che esisto, un me stesso, ma semplicemente dedicarmi alla cosa che mi appassiona di più, in questo modo dilatare, trasformare, entrare in una relazione diversa col tempo, ma anche entrare in una relazione diversa con le mie energie interiori, che da un lato entrano in armonia, si concentrano, lavorano sul focus di quello che sta accadendo. Quindi io devo parlarvi, devo fare la puntata, devo starci dentro mentre sono in onda, ma allo stesso tempo questa attività nel concentrare il mio focus, nel pormi anche una sfida, quindi fare una puntata interessante che possa essere gradevole all'ascolto, questi elementi creano una sensazione di benessere nella persona. Questo perché, adesso lo dico così a spanne perché non sono arrivato a questo punto del libro, però direi che nella tesi di Csikszentmihalyi, il discorso sia che queste attività di focus, il flow, il momento del flow nell'esperienza quotidiana è quella che restituisce senso e piacere all'esistenza, ed è proprio il punto di stare su Radio Antidoto, anche al costo di essere un pochettino onnipresente, un pochettino invadente nello spazio del palinsesto, che comunque in questi giorni sta proponendo delle cose carine. Ci siamo sempre io e Asco che andiamo come treni, ma anche Vittorio sta producendo delle cose nuove, poi Bonelli è in America e stiamo attendendo insomma le notizie dalla sua residenza artistica in America, che tra l'altro è una figata pazzesca, più ci penso e più penso che sia una figata pazzesca e vorrei fare pure io. E poi io ho ancora quel contenuto, come dire, in scatola, nel senso che devo salvare dal mio pasticcio, per cui insomma nei prossimi giorni devo ritagliarmi il tempo per riascoltarlo, tagliare le parti che funzionano e trovare un modo per farle stare insieme. E adesso vi faccio sentire, quelli che sono stati la vera sorpresa finora della mia estate musicale. Questi sono pazzi, questo è proprio antimusica, vi preparo psicologicamente, ma io e gli amici che li abbiamo visti dal vivo siamo rimasti a bocca aperta. Immaginate un palco in mezzo al fango, un palco sponsorizzato da Idealista, tra l'altro, la compagnia, il motore di ricerca degli annunci immobiliari, che sponsorizza un palco in mezzo al fango, dedicato fondamentalmente a tutte le proposte più punk, più radicali, più anche, come dire, diciamo grottesche, improbabili, che c'erano in calendario, e loro li potrei descrivere sul palco, però non rendere l'idea, posso soltanto dire che emanavano nella loro sgangheratezza, nel loro parlare in modo così colloquiale, nel loro essere anti performer, in realtà hanno creato una super performance, pur cantando male, pur con le basi, non importa, io e i miei soci siamo rimasti a bocca aperta ad ascoltarli, e loro si chiamano Sga. E arrivo alle 18, che mi fa male gli occhi. 8 ore al PC, senza sedia da gamer. E invece che scopare, io penso a lavorare. Faccio 9-18, pausa pranzo e poi parco. E dico che parto, e prima o poi parto. Birrette al parco, e qui è tutto un pacco. La cura dal tricologo, sto senza vitamina D e sembro uno zombie. Ho le occhiaie negli occhi, e tu che non mi baci mai, e io che vorrei. Scaldo la minestra, non sputo mai nel piatto, e torno sui miei passi. E lei che non passa mai, una tipa fedele come la mia cervicale, una che non se ne va mai, una che ti sta addosso, una che non ti molla mai, una tipa un accollo. E c'ho quasi 30 anni, ma vorrei averne 6. Sono un tipo un po' scarso, c'è Amazon col pacco. Birrette al parco, e prima o poi parto. E dico che parto, e qui è tutto un pacco. E qui è tutto un pacco, ma prima o poi parto. Ma prima che parto, birrette al parco. C'è qualche cosa nella poesia che va al di là del significato delle parole e che resta segreto, e che resta segreto, e che quanto più è segreto, quanto più è vastità di segreto, tanto più coinvolge l'uomo nella forza che quella poesia esprime, che quelle parole poetiche scelte dal poeta per manifestarsi esprimono. Mi è cambiata la realtà, avevo un paio di occhi in più con lei, e far volare un vecchio cielo mi ha tirato ancor più giù. Mayday, lascerei tutto così com'è, ma cambierei pianeta. Lassù mi scorderei Much is said about the virtues and pleasures of individuality, of being someone who stands out from the crowd and delights in their own particularity. But let's also admit to how frankly lonely and frightening it can be to find ourselves yet again in a peculiar minority, where the differences between us and others strike us as bewildering rather than emboldening. When, for example, everyone seems to want to gossip, but we prefer generosity and forgiveness. When everyone is at ease, but we're melancholy and self-conscious. When everyone is cheerful, but we can't seem to let go of anxiety and apprehension. When everyone seems confident, but we feel suspicious and ashamed of ourselves. When everyone is contented in their couples, but we're still searching for a home. When everyone worries passionately about the future of the planet, but we feel cold and at times almost indifferent. When everyone seems to love life, but we're not sure if we quite do. At such times, we might benefit from a few thoughts to alleviate the isolation. Firstly, we don't know reality as well as we imagine. What we believe that everyone is like may not be how they actually are. We may have more friends than we think. Also, we're getting statistics wrong. These 4 or 8 or 12 people in a room don't represent all of humanity. The 80 or so people in our extended social group are in fact always a minuscule part of the human story. There are still so many friends left to meet. Also, perhaps our existing companions actually know much more about the material we feel alone with than we suspect. They and we simply haven't found a way to share our true selves. Maybe they will feel what we feel one day, just not yet. It may be fine to belong to a minority. Minorities have sheltered some of the most accomplished spirits that have ever lived. Isolation may just be a price we have to pay for a certain complexity of mind. And lastly, we have art to bridge the gaps between ourselves and other people. Bookshops are an ideal destination for the lonely, given how many books were written, because their authors couldn't find anyone to talk to. Maybe there are people nearby, perhaps in this community, who would understand very well indeed. Rigonia. Rigonia, stagione 2, episodio 28, 11:39, domenica 2 gennaio, 2 giugno 2024. Buona festa della Repubblica. Ho passato mezza puntata a dirmi: scarica un contenuto sulla festa della Repubblica, scarica un contenuto sulla festa della Repubblica. Io ho 41 anni e ancora non ho capito cosa cazzo è sta festa della Repubblica, cioè perché esiste, cosa ce ne dobbiamo fare di questa festa della Repubblica. Giustamente la mia percezione è sempre quella che sia una roba che si sono inventati i fascisti, come dire, per non dover festeggiare la liberazione, ma non lo diciamo, nel senso non siamo per forza tenuti a dire questa cosa. È vero che il 2 giugno 2024 c'è stata la votazione per decidere se essere ancora una monarchia o una repubblica. Gli italiani si sono espressi, non ci si esprime più così tanto, forse, o non si hanno più tante le idee chiare, o forse le idee sono chiarissime, ma alla gente come me queste idee così chiare non piacciono per niente. Vi ho fatto sentire Lucio Corsi, e Lucio Corsi è veramente una rockstar. Dal vivo ha fatto un live pazzesco. E rende molto molto di meno su disco, lo temevo, lo sospettavo, non avevo ancora sentito roba registrata sua, ma la combinazione di rock and roll, il suo carisma, ma anche, come dire, una certa umiltà come persona, le liriche, i testi, questo gusto anni 70, questo leggero mica tanto, nel senso questa forte ispirazione di Ivan Graziani, di cui ha anche suonato un brano dal vivo, me lo hanno reso subito molto molto apprezzato, apprezzabile, mi ha veramente stordito. Ho guardato mezzo concerto a bocca aperta, perché appunto mi è stato venduto come cantautore. Effettivamente è un cantautore, ma finalmente mi ha fatto una proposta cantautoriale un po' diversa a quella che sono abituato, appunto, a cui peraltro scrivo anche io. Ma in realtà, ecco, una delle cose che mi piacerebbe fare non è un progetto, però è più un sogno. Vorrei tanto trovare una band che abbia il piacere di suonare le mie canzoni, dove io possa solo cantare, perché nella mia testa le mie canzoni sono canzoni molto rock, dove c'è molta energia. Naturalmente, quando le suono io chitarra e voce, posso arrivare fino a un certo punto, e anche per limiti miei. Però anche ieri, guardando questi ragazzi che suonavano sul palco, ho sentito, e tutte le volte che vedo un live sento il brivido, il piacere, il flow, torniamo al flow. Magari questa puntata poi la chiamo flow, non la chiamo progetti, vediamo, ci penso su. Il flow di queste energie potentissime, emotive, che escono fuori e deragliano tutto. E tra le altre cose, vabbè, non importa, o importa, non importa, importa, vabbè, lo dico subito. La prima clip che ho mandato in onda, appunto, una clip di quelle che ho registrato io, parlava di Itbol e di una sconfitta, e quest'anno, insomma, la mia squadra è retrocessa, e un gruppo, probabilmente al momento la squadra si separerà in due blocchi. E da un lato una cosa molto triste, dall'altro segna proprio la fine di questo mega ciclo che almeno io percepisco nella mia vita, e che in realtà apre un ciclo nuovo. E io sono qui proprio perché sto aprendo il ciclo nuovo, sto io per primo, voglio spalancare le porte e le finestre e cambiare aria. E a tal riguardo, appunto, riguardo al buttare fuori le energie, creare energie nuove, energie creative, c'è anche lo sport, nel senso che io l'anno prossimo sicuramente ricomincerò a giocare a hitball, però questa settimana mi è capitato di giocare a beach volley, che non è esattamente la mia disciplina, e mi sono divertito moltissimo. Ed era uno sport all'aria aperta, ed è stato uno sport nel quale mi sono potuto tuffare, mi sono potuto scatenare, scaricare, ridere molto, perché non sono capace a giocare. Ed è proprio quello che il progetto, nel senso quello che mi propongo di creare almeno per quest'estate, contesti all'aria aperta dove io posso in qualche maniera, da un lato, raccogliere nuove energie, ma anche buttare fuori nuove energie, appunto, creative, nuove energie di pensiero, nuove energie emotive, belle, pulite, appaganti, perché, come ho detto in episodi precedenti, sto entrando in contatto con una nuova versione di me stesso, ed è una versione che mi piace molto, e sono molto curioso di vedere come se la cava messa alla prova, diciamo così, del mondo fuori. Scortato dai corazzieri a cavallo, il presidente della Repubblica giunge sulla via dei Fori Imperiali, dove come ogni anno si svolge un'imponente rivista militare per celebrare la proclamazione della Repubblica. Vibranti gli applausi della grande folla presente all'impeccabile passaggio dei nostri soldati di terra, di mare e di cielo. Sono sfilati complessivamente 23 bandiere, 18 medaglieri, 9.000 uomini, 70 pezzi di artiglieria, 130 mezzi corazzati, 160 mezzi blindati e cingolati, 240 automezzi. Non armi di offesa, ma sicure armi di difesa che testimoniano come il nostro paese abbia un saldo presidio a tutela della pace, a garanzia della sua serena volontà di lavoro. Ah, Gesù Cristo. Ma un brivido di commozione passa tra la folla. Irrompono i bersaglieri, simbolo di giovinezza e di spavalda gioia di vivere. È sempre, sempre, sempre la solita zuppa. Cry, where you couldn't be that man I adored. That Rockers and Rollers was it. Why mess around with TV where you got restrictions and executives? $2 million. That'll do it, I guess, yeah. That'll do it. Well, I thought, you know, I checked this out with the... I was going to have a chart on the show. They wouldn't let me have it. I was going to have a chart. I was telling someone else this. I was going to have a chart to show that as the shows got worse, my money got larger. I call it integrity chart. So, integrity 3, money 12. I got it. The television thing, you know, a lot of people said it was canceled, and the show wasn't canceled. You know, we only did 4 shows, and that was our intent, because it's hard work trying to do something and people telling you you can't. It must be tough, you know, looking over your shoulder. And they lie, grown men lie to you, to your face. Like what? Can you give me an example? Well, we'll fix that. It's not our fault. And I'll be right back. I'll be with you Wednesday. We'll talk about it. And then they'll go to somebody else, fix it, you know, make sure that doesn't get on, okay? Don't tell him I said so. Right? And then they look you in the face, and I want to hit them in the face, you know? And you can't do that because the court, they sue you now. You know? Yeah, that's this new thing. Yeah, it's $60,000 for a left hook. It's not worth it. No. Well, and plus, you might get dusted, too, and it's very embarrassing. You know, you don't always win them fights when you be hit. No. It's very embarrassing to have an old white man whoop you at NBC. All through the halls. So how'd you leave it with these characters? Well, I left it like I went. I left everything intact, said so long, and thank you very much. And see you at the Bank of America. What kind of stuff are they giving you the most trouble about in terms of censorship? Nudity or lying? Like waking up. Just getting out of bed in the morning? They just have it in their minds that they want to hire somebody, but they don't want any communication made. You know, they want to like make you into something. I don't know. It's like, I guess it goes into white homes. They're worried about that a lot. You know, it's funny. Gwen Barrett, our associate producer, sometime producer, is black, you know, and Carmen Matias is You have to be colored to be on television. Colored? Yes, you can't be black. You have to have a little colored in there. Just a taste. Tad. Yeah, just to keep it interesting to America. Yeah. Well, she said, we were talking about your humor, that your humor offends white people. And I'm not that easily offended. Like, I'm not coming from a spot where Richard Pryor's going to offend me. I think you have humor that makes us see a lot of the truth and laugh at things we wouldn't normally laugh at. I think that's part of what you're doing. L'intervista a Richard Pryor è molto lunga. Sono 5 minuti circa. Era molto bella. L'ho scaricata perché il titolo era How Capitalism Promotes Racism. E secondo me non ci siamo neanche arrivati a quando ne parla, ma siamo a 10 minuti dalla trasmissione. Vi ho fatto sentire una cosa molto probabilmente prodotta da un'intelligenza artificiale, quindi che tipo di canzone sarebbe Torn di Natalie Imbruglia se l'avessero scritta i Korn, che poi di fatto è quello che è successo, cioè anche se non sono direttamente i Korn, comunque è stata scritta una canzone, cioè è stata riscritta una canzone pop di una cantante australiana con i modi e gli strumenti di una band americana new metal, ovvero i Korn. Quindi adesso non è più un come se, esiste, l'abbiamo sentita, è credibilissima. Mi è anche piaciuta, maledizione, e questi sono le cose che stanno succedendo di questi tempi. Mi è piaciuto molto fare questa puntata con pochissime parole, spero, immagino sia piaciuta moltissimo anche a voi, e ce ne saranno altre. Mentre ascoltavo Richard Pryor in questo talk show americano, mi sono messo a sguarducchiare le mie cose astrologico fricchettone che seguo, e una cosa molto interessante è che comincio a distaccarmi da questo mondo, nel senso che quello che mi viene divinato, quello che mi viene prospettato, quello che mi viene proposto come idea per il mio futuro non mi piace più, non mi sta bene. Vera o falsa che sia, mi trovo di nuovo finalmente nella posizione in cui, come dire, il mio percorso personale è tracciato. L'ho tracciato io, e questa puntata è anche un po' questa cosa qui, no? Il poter raccontare il fatto che ho delle cose che ho voglia di fare, sto già facendo, e di cui vi parlerò, nel senso, man mano che andrò avanti, e che le farò naturalmente. Raccoglierò altra nuova musica, forse, o altre nuove esperienze, altre nuove storie. Insomma, oggi gli audio si sono mossi su vari argomenti. C'è stato anche un bel momento di Ungaretti che ha parlato di poesia, e mi piacerebbe fare una puntata sulla poesia, o quantomeno sul rapporto tra la parola e il senso dell'artista, perché di nuovo questa cosa la ripeterò in questo periodo a lungo. È vero che io sto parlando dei fatti miei e sto, come dire, sto conducendo un'impresa molto autoreferenziale, ma in realtà questa cosa per me è arte, nel senso è proprio, nasce da un'esigenza interiore che sento anche adesso, è come un nodo, ma non un nodo brutto, cioè è come se ci fosse una pallina di forza nella mia pancia che mi dice: vai in onda, parla, racconta, raccontati, esplora, condividi. E c'è di più, oltre alle mie parole, in questi episodi che voi state ascoltando. Alcuni di voi ci si ritroveranno, altri si annoieranno, altri si concentreranno solo sulle clip audio, altri solo sulla musica, ma il punto è che non mi posso fermare, non mi fermerò. Questo è il mio flow e soprattutto è il mio scopo. Cioè, io lavoro 7 ore e 12 formalmente al giorno per 5 giorni su 7, 3 ore a settimana vado in sala prove e suono con un amico, mi occupo della casa, sono un uomo sposato e passo del tempo con mia moglie, pratico degli sport, alcuni negli anni sono diventati praticamente una specie di lavoro, adesso sto cercando di farli tornare un divertimento. Sono appassionato di musica, sono appassionato anche di libri, di altre cose. Sto pensando se questa settimana che viene andare al cinema da solo, ma non so che cosa ci sia in sala, quindi devo ancora capire bene come muovermi. Però il discorso è che alla fine, quando ho questa oretta in cui faccio questa cosa, che sia suonare, che sia scrivere la newsletter, che sia andare in onda e parlo di me, questo è il mio scopo, questo è il senso. Cioè, quando sarò sul letto di morte penserò: l'ho fatto, dovevo fare quella cosa lì e l'ho fatta ed è andata bene. Perché poi il punto è: quando fai la cosa che senti dover fare, va sempre bene. Tutto quello che arriva è sempre tutto quello che è giusto che arrivi e che fa bene. Cioè, e io devo dire, sono molto appagato da quello che sto facendo in onda in questo periodo, a prescindere dalla presenza o meno di feedback, mi sto divertendo molto. E a tal proposito la chiudo qui, vi mando ancora un audio, un brano e poi sigla, anche se sforerò un po', non troppo. Sono le 11.57 del 2 giugno 2024, la festa della Repubblica, dove noi abbiamo votato per avere una Repubblica invece di una monarchia, però quello era il plebiscito, forse sto facendo confusione. Fatto sta che il 2 giugno non si capisce perché sfilano i soldati, sfilano i carri armati e ti dicono che è per la pace, e tu dici sì, vabbè, e una stretta di mano secondo me funziona meglio, comunque vedetela un po' voi. E la chiudo qui questa faccenda della referendum istituzionale, no, è giusto, referendum istituzionale con il quale gli italiani vengono chiamati all'unione per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica dare al paese. Sì, non sono impazzito, cioè, ogni tanto vado in confusione da solo. Bene, audio, canzone, vi faccio sentire un'altra canzone di Lucio Corsi, molto bellina, davvero. E poi ciao, ci sentiamo sicuramente la prossima settimana, penso martedì, ma tanto è sempre tutto molto improvvisato ed è il bello, una delle cose belle di Radio Antidoto. Un abbraccio a tutti, buona domenica e alla prossima. What happens to a child who isn't loved properly? The answer one might expect is that they start to hate the person who doesn't give them the love they need. But far from it. The reality is that the child becomes filled with shame, a sense that it's profoundly unworthy, dirty, soiled, sinful, ugly, embarrassing. The child is unable to redirect the blame outwards. It doesn't ask, "What's wrong with my parents for not loving me adequately?" It simply wonders in a forlorn way, What have I done wrong in order to have ended up on the receiving end of my parents' disapproval? The child prefers to attack itself for being bad than to confront a yet more awful possibility that it's entirely dependent for its well-being on inadequate and unkind parental figures. The child searches for explanations for the lack of love it has to endure and comes up with all the wrong answers. It concludes, I've not been impressive enough, and therefore it undertakes enormous efforts to prove to itself and outsiders that it does, nevertheless, deserve to exist. At school, this kind of child might try 7 times as hard as any other to show that it's clever and good. Or else a child may go down an antisocial route and graffiti the nearby underpass as a desperate way of giving outward form to a feeling of badness it's tortured by inside. There is, so sadly, no way out from the burden of shame, available either by trying to be extremely good or extremely bad. The only solution is to work against the grain of forgetting, in order to perceive, for the first time, an awful possibility that one could never perceive as a child, that one has done nothing wrong at all, that wrong was done to one. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. A Lugano spazzarono via le foglie dalla strada. Perché se una l'avesse preso sulla schiena, non si sarebbe più visto tornare a casa la sera. E suo padre avrebbe sciolto il giornale tenendolo in mano a forza di lacrimare. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. Sua madre gli metteva i sassi nelle tasche quando usciva di casa. Suo padre lo portava in giro con un'imbracatura, ad ogni soffio di vento un brivido di paura. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. E volando in alto andò a scontrarsi a un aeroplano che gli disse guarda che se ti concentri arrivi alla luna, guarda se ti concentri arrivi alla luna. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. A Lugano spazzarono via le foglie dalla strada. Perché il signore un giorno disse che le foglie erano sporche, mentre il lupo rispondeva, amico mio, sono più sporco io. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. E volando in alto andò a scontrarsi a un aeroplano che gli disse guarda che se ti concentri arrivi alla luna, guarda se ti concentri arrivi alla luna. Per questo la luna piena di buche ce le ha fatte lui con la sua testa, e invece di piantarci una bandiera ritornava giù ogni sera. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. I dottori dissero, appesantirlo è l'unica cosa da fare. L'ingegnere si inventò un'armatura da 6 quintali, ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali. Ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali. Ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali. Ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali. We'll be right back. su Rigonia.